Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, talenti in fuga, vecchia storia. Questo è il curioso ma suggestivo titolo del concerto composto dal nostro ascoltatore, nonché musicista Davide Nicolosi, di cui state ascoltando un passaggio. È anche una vecchia e insoluta storia quella dei giovani che contano sempre troppo poco in Italia, come conferma la frase della settimana copyright del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un aspetto cruciale è rappresentato dal superamento della presente condizione di diffusa sottoutilizzazione delle capacità di lavoro e di innovazione delle giovani generazioni, le cui energie sono indispensabili per un processo di duratura crescita, così Napolitano. Energie che, ci spiace notare, sempre di più emigrano, in tutti i settori, davvero, in tutti i settori. In Cina c'è futuro perché la Cina è un paese giovane, l'Italia non è un paese per giovani. In Cina gli espatriati che decidono di tornare dopo gli studi all'estero hanno uno stipendio molto alto e maggiori possibilità di carriera. Alberto Sanseverino, 30 anni, è scenografo e direttore creativo al lavoro a Shanghai. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. In Italia ci sono ricercatori eccellenti, scienziati che pubblicano su riviste internazionali e che aprono strade nuove all'avanguardia nella ricerca scientifica. Questi ricercatori sono degli eroi perché riescono ad essere competitivi e riescono a creare impiego nella ricerca nel breve, medio e anche nel lungo termine. Quello che vi chiedo, signor Presidente, signor Ministro, è quello di aiutarci. Aiutateci a lavorare bene. In apertura delle news la voce di Ilaria Capua, virologa e ricercatrice intervenuta la scorsa settimana agli Stati Generali della Cultura. La sua vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, ha destato scalpore dopo la denuncia del mancato trasferimento nella Torre della Ricerca Pediatrica costruita a Padova. Per tenerla in Italia, anche un appello dell'Associazione Nord-Est Europa. La Regione Veneto ha annunciato lo stanziamento di 1 milione di euro per realizzare il trasferimento della Capua e del suo team. Lei, dopo l'incontro con il presidente Napolitano, ha dichiarato: "Per ora resto, vediamo come evolve la situazione, ma se anche io rimanessi e altri 99 colleghi se ne andassero, non avremmo risolto nulla." Ma a volte tornano, ed è una buona notizia. Sono 350 i progetti presentati per il bando Messaggeri, iniziativa promossa dai ministeri dell'Università e della Coesione. Il bando consentirà ai dipartimenti universitari di 4 regioni del sud di coinvolgere nell'insegnamento ricercatori affiliati a università o centri di ricerca esteri. 324 i ricercatori che si sono candidati, il 61% delle domande proviene dall'Europa, ma non mancano studiosi americani, asiatici, cinesi e indiani. 141 i dipartimenti degli Atenei meridionali che hanno dato la disponibilità ad accogliere l'iniziativa. La valutazione dei progetti si concluderà entro il 15 dicembre. Ancora sulla guerra per l'accaparramento dei cervelli. Torniamo a parlare dello studio della ricercatrice Chiara Franzoni sulla circolazione degli scienziati, di cui vi abbiamo riferito a ottobre, per un'altra interessante scoperta che riguarda i ricercatori di rientro. A sorpresa, se gli scienziati di ritorno in patria ottengono mediamente performance migliori nelle pubblicazioni scientifiche rispetto a chi rimane all'estero, quelli italiani, insieme a indiani e brasiliani, fanno addirittura un passo indietro con performance peggiori e non riescono così a sfruttare al meglio né le esperienze maturate né il proprio potenziale. E secondo uno studio targato Elsevier, la circolazione dei cervelli riguarda nel nostro paese il 32,6% dei ricercatori, con un indice di produttività maggiore del 52% rispetto alla media. Al contrario, i ricercatori che non hanno mai lasciato la penisola hanno una produttività inferiore del 40%. La Commissione europea presenterà a dicembre un pacchetto per l'occupazione giovanile. La disoccupazione giovanile ha raggiunto picchi storici inaccettabili, ha affermato il commissario agli affari sociali Laszlo Andor. Tra le proposte previste uno schema di garanzie per i giovani che assicuri alle under 25 entro 4 mesi dalla fine degli studi un'occupazione o un'ulteriore possibilità di studio. Verrà inoltre avviata la seconda fase di consultazione per definire un quadro di qualità per stage e apprendistato. Nuove mobilità o nuove migrazioni italiane? Questo è il titolo di un'indagine avviata dal Centro Altre Italie che intende monitorare e fotografare gli italiani che a partire dal 2000 hanno deciso di trasferirsi all'estero. Maddalena Tirabassi, direttrice del centro. Negli ultimi anni ci siamo accorti di una aumento del numero dei giovani che si recano all'estero, sia per motivi di studio che di lavoro. Su questo è stato scritto molto, ma ci siamo anche resi conto che manca ancora un'analisi sistematica che dia conto sia delle cifre, dell'entità degli spostamenti dei giovani all'estero, sia delle motivazioni che li spingono. Per partecipare all'indagine, www.altraitalia.it. Cadono il 4 dicembre diversi bandi per le borse Fulbright che permettono ai migliori laureati o dottori di ricerca italiani di perfezionarsi negli Stati Uniti nell'ottica di un rientro. Tutte le info al fulbright.it. Ed è in programma sabato 1 dicembre a Londra l'incontro del social network Pordenonesi nel mondo con i giovani friulani residenti in Gran Bretagna. Tutte le info a pordenonesinelmondo.com. La storia di questa settimana dei giovani talenti ci riporta in Cina. Andiamo a Shanghai, capitale economica e cuore pulsante del paese, non solo per motivi di business, come vedremo. Nome: Alberto. Cognome: San Severino. Età: 30. Città di origine: Atripalda, provincia di Avellino. Studi: scenografia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Shanghai. Perché? Per seguire la messa in scena di un'opera lirica. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore creativo. Dove? HLD Events, Shanghai. Tornerai? Questo non si sa. In Italia a 30 anni ero considerato un eterno giovane, in Cina è cominciata una nuova fase della mia vita. Alberto, bastano queste semplici parole che hai scritto a giovani talenti @radio24.it per riassumere il senso complessivo della lettera che ci ha inviato lo scorso agosto. Sarò molto diretto in questa prima domanda: in Italia non c'è futuro per un giovane, perché in Cina invece sì? In Cina c'è futuro perché la Cina è un paese giovane, l'Italia non è un paese per giovani. In Cina gli espatriati che decidono di tornare dopo gli studi all'estero hanno uno stipendio molto alto e maggiori possibilità di carriera. In Italia invece no, e qui sta tutta la differenza, hai colto un punto molto importante. Ma iniziamo il racconto della tua storia, ai noi fin troppo paradigmatica, del cursus honorum che si trova ad affrontare un giovane di questo paese coi tuoi studi: grafica pubblicitaria ad Avellino, poi il trasferimento a Milano dove ti iscrivi al corso di scenografia presso l'Accademia di Brera. Perché questa scelta? Questa scelta era data dall'esigenza di vivere in un ambiente internazionale più aperto rispetto alla provincia da cui provengo. Nei 5 anni di studi esponi i tuoi primi progetti, vinci un concorso per l'allestimento di uno spettacolo di prosa, avvia alcune collaborazioni. Sul piano dell'insegnamento descrivi invece le nostre accademie di belle arti come luoghi con programmi di studio spesso retrivi e inadeguati, forse per la pigrizia di molti docenti nel rinnovarsi. Hai avuto l'impressione di un netto scollamento tra teoria e pratica? Assolutamente sì, le accademie di belle arti molto spesso sono ambienti autoreferenziali senza nessun collegamento con le imprese e molto spesso anche i metodi di assunzione sia del corpo docente a tempo determinato che quello a contratto sono poco trasparenti. Nel 2006 la laurea in scenografia, titolo della tesi l'architettura ellittica e scenografica. Se dovessi dare un giudizio complessivo degli anni di studio e anche dei professori: accademicamente molto preparati, pochi inclini al cambiamento e ad aprirsi a una dimensione internazionale. Nel 2006 cominciano i miei viaggi per l'Italia alla ricerca di lavoro, ci scrivi, e quello che descrivi è un vero e proprio pellegrinaggio con troppe porte chiuse, senza speranza, anche se uno degli incontri intermediato da una collega giapponese si rivelerà fondamentale per il successivo espatrio. Ci puoi raccontare in modo molto concreto cosa ha comportato per te questo pellegrinaggio per l'Italia? Pellegrinaggio mi ha rivelato senza dubbio il volto del mondo dello spettacolo, nel bene e nel male. Ma quante delusioni hai avuto anche? Ho avuto tantissime delusioni, molte porte chiuse, però non ho mollato. Cos'è una porta chiusa in Italia? La porta chiusa è una mancanza di apertura verso idee giovani e soprattutto verso persone che hanno qualcosa da dire. Questo poi chiaramente a lungo andare mi ha spinto ad emigrare. Tu intanto comunque in quegli anni non stai fermo, lavori come decoratore, ti iscrivi a un corso sul disegno tridimensionale, collabori su più eventi e allestimenti e hai anche un contatto col mondo del lavoro all'estero. Quale ambiente hai trovato quando hai collaborato col Giappone prima e con la Cina poi? Più rispetto, più considerazione per la tua professionalità? C'è assolutamente assolutamente più rispetto e più considerazione ti mettono alla pari, al di là di ogni provenienza culturale e sociale. Il tuo valore è poi ripagato anche in termini di giusto salario. Stupisce come molti degli scenografi e dei designer con cui ti sei trovato a lavorare qui in Italia siano stati poi da te descritti così: persone che hanno avuto molte difficoltà in Italia a causa delle cattive amministrazioni o delle caste dei teatri d'opera, oppure che sono stati essi stessi obbligati a espatriare. Il nuovo, Alberto, fa paura in questo paese? Il nuovo fa paura e la bravura molto spesso mette i maestri e i direttori artistici sulle barricate. La svolta nella tua vita professionale, ma non solo, arriva col lavoro per il melodramma Elisir d'amore che il regista Stefano Monti, con cui collabori ormai da tempo, porta in scena a Shanghai. Cosa accade quando arrivi in Cina? Quanti colloqui di lavoro fai e quale proposta accetti? Faccio due colloqui di lavoro, il primo per una società francese, il secondo per una società cinese gestita da un manager italiano che mi ha proposto un contratto a tempo indeterminato e delle possibilità di carriera serie. Da qui è cominciata la mia carriera, che poi in un anno mi ha portato a diventare direttore artistico della stessa azienda. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Dopo anni di tentativi alla ricerca di una posizione nel mondo dello spettacolo, ho deciso di mollare. A Shanghai mi è bastata una settimana per trovare lavoro, 10 giorni per ottenere un altro visto, un anno per diventare direttore creativo di un'azienda. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. È vero, Alberto, che un anno in Cina equivale a 7 anni in Italia? Questa è una statistica dello Standard Chartered. Purtroppo nel mondo dello spettacolo siamo rimasti fermi a 20 anni fa e non c'è stato nessun cambiamento di rilievo. Perché è ora di finirla, come tu affermi, di vivere di rendite culturali e castali nella penisola? Perché occorre uscire dal nostro provincialismo smettendola di riposare sugli allori? E quanto questo nostro provincialismo ci penalizza quando affrontiamo mercati emergenti ma difficili come quello cinese? Sicuramente è ora di finirla, perché il teatro, come è stato concepito dai nostri padri fondatori, è finito. Il mondo è cambiato, viviamo in una dimensione globale e se non ci apriamo a questa dimensione globale rischiamo di perdere anche nei confronti dei paesi emergenti come la Cina. Quindi c'è il rischio che altri designer come me, altre persone nello spettacolo, saranno costrette ad emigrare. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Vedo l'Italia come un vecchio paese calabrese degli anni 50, ormai spopolato, dove regnano soltanto i soliti volti noti. Bisogna sicuramente ridare allo spettacolo una nuova dimensione più aziendale. Bisogna innanzitutto dare un solo incarico ai direttori artistici, non più incarichi. Bisogna che gli spettacoli debbano essere commissionati in seguito a una vera e propria gara e la commissione giudicante deve essere internazionale. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alberto Sanseverino, 30enne scenografo e direttore creativo al lavoro a Shanghai. Alberto vi giunge dopo una laurea in scenografia all'Accademia di Brera e innumerevoli tentativi di emergere in Italia nel corso dei 5 anni successivi al titolo, ma Alberto si trova sempre a fare i conti con un muro di gomma che gli consente solo di trovare lavori e collaborazioni saltuarie. Fino a un anno fa, quando parte per la Cina per chiudere un lavoro di scenografia teatrale, 2 colloqui a Shanghai con immediata proposta di assunzione. In un solo anno si materializza il salto da disegnatore 3D a direttore creativo in un paese con enormi potenzialità di sviluppo. Alberto osserva da Shanghai un paese, l'Italia, immobile, dominato da una classe dirigente gerontocratica che continua a vivere come se nulla fosse su rendite culturali e castali. Ci raggiunge ora in linea Lorenzo Baraldi, scenografo, vicepresidente dell'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Baraldi, la storia di Alberto è sicuramente simile e comune a quella di molti altri giovani scenografi che con difficoltà provano a fare il loro ingresso in una professione che appare chiusa. Andiamo allora con ordine. Quali responsabilità, secondo lei, ha in primo luogo il sistema Italia a livello formativo, ma soprattutto di valorizzazione di un patrimonio enorme, quale quello culturale, troppo spesso ridotto a interpretare la parte della Cenerentola? Prima di tutto, quello che ha detto Sanseverino è giusto, una buona parte di quello che ha detto. La prima cosa devo dire è già dall'inizio, cioè dalla scuola, che versi in un pessimo stato. Si vede quanta attenzione c'è appunto per la cultura, ossia quasi zero dei nostri politici, evidentemente del governo che è passato. Quando uno dice che con la cultura non si mangia oppure che siamo dei parassiti, evidentemente parassiti particolarmente nello spettacolo, questo evidentemente non abbiamo evidentemente un governo, ma non ne abbiamo mai avuti. Sì, è un po' assurdo il fatto che siamo un paese conosciuto in tutto il mondo per la sua cultura e che poi alla fine non la valorizza mai. C'è anche un problema generazionale, Alberto lo ha esplicitato chiaramente, quel poco di lavoro. C'è un problema di lavoro, sì. Non c'è lavoro in Italia, non ci sono quattrini e soldi, questa è la prima cosa, diciamo la verità. Lui parla molto di teatro, in effetti c'è un po' di, diciamo, del baronismo in teatro, baroni pochi, ma ci sono. E non ci sono troppe rendite di posizione, privilegi anacronistici. Questo è il problema. Il problema è che purtroppo gli stabili di teatro, quasi tutti sono stabili, però il problema è pubblici sono, la maggior parte, non ci sono produttori privati. Il grosso problema nostro, lo scoglio nostro, è che non c'è lavoro, non c'è nulla. Nel teatro abbiamo solamente lo Stato, in pratica, non abbiamo nient'altro, se non qualche cosa di privato che entra, ma così. Mi pare capire che purtroppo c'è veramente il deserto. Alberto, hai una domanda per Lorenzo Baraldi? Volevo chiedere semplicemente qual era la sua idea per portare a un cambiamento del sistema. Io credo che bisogna veramente riformare a partire dalle accademie, a partire dai programmi di studio. Per esempio, mi chiedo molto spesso per quale motivo un ragazzo cinese dovrebbe investire la propria preparazione culturale in Italia, quando anche le accademie di arte drammatica sono pieni di figli di attori, pieni di figli di registi. Questo è il punto. Bisogna, dal mio punto di vista, investire proprio dal basso. Posso tradurre, se posso tradurre quello che dice Alberto, c'è sicuramente poco lavoro, ci sono pochi investimenti, ma bisogna anche partire intaccando certe rendite di posizione. Baraldi. Questo è anche sicuro, evidentemente, però non metto in dubbio, questo molto sui teatri, questo lo posso capire, San Severino. Nel cinema e nella fiction è molto difficile, evidentemente, perché sono entrati molti giovani, anzi noi anziani ormai stiamo finendo evidentemente la nostra carriera, ma non siamo degli anziani che abbiamo delle capacità. Io per esempio sono uno del 72enne che insomma ha fatto quello che ha fatto nella mia carriera, però negli ultimi 7 anni ho fatto solamente 3 film in 7 anni, dunque non sono uno di quei baroni che riesce a prendere lavoro eccetera eccetera, anzi pochissimo lavoro. Nessuno l'accusava. Una domanda ancora, Baraldi. L'ASC, l'organizzazione che lei rappresenta, ha tra gli obiettivi quello di garantire e difendere la qualità della professione e di contribuire a stabilire un rapporto tra professionisti affermati e giovani. Allora, quali sfide vede all'orizzonte e quale impegno prende anche lei come vicepresidente per far sì che possano migliorare le prospettive professionali dei giovani che vogliono affacciarsi alla professione? Il problema è molto grave. Il problema, stiamo parlando della scuola, come parlava anche San Severino. Il problema della Grammia è gravissimo. Nel senso, a un certo momento oggi, noi ancora oggi, 2012, abbiamo ancora l'insegnamento a livelli bassissimi. L'accademia è sempre uguale, allucinante, non si cambiano. Però questi professori, molti professori, non hanno fatto nessuna carriera, cioè non hanno fatto un'opera teatrale, non hanno fatto un lavoro cinematografico, non hanno fatto un lavoro in televisione, non hanno fatto nulla, eppure sono lì ad insegnare. Questo è gravissimo, secondo me. L'impegno dell'associazione, adesso glielo dico, è soprattutto appunto di formare questi giovani, insegnando evidentemente ad avere la professione. Poi molti pensano che l'associazione, la nostra associazione, sia un ufficio di collocamento. Non è un ufficio di collocamento. Noi non troviamo il lavoro, ma con i nostri corsi, i nostri incontri con questi ragazzi, cerchiamo di far capire che cos'è questo lavoro e come possono prepararsi per farlo e andare avanti. Grazie a Lorenzo Baraldi, scenografo, vicepresidente dell'ASC, e domanda a diritto per Alberto San Severino: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente, se ha la possibilità di investire le proprie risorse in un master all'estero, sicuramente pensare che la creatività italiana è sempre utile e ammirata in ogni parte del mondo, e questo, mia esperienza, vuole essere anche un consiglio da dare ai giovani coetanei, è quello appunto di aprirsi a queste nuove culture. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un senior banker alla European Bank for Reconstruction and Development, sede di Londra, scadenza per CV 27 novembre, info su ebrdjobs.com. Un capo unità ad EIPA, lo European Institute of Public Administration, sede di Maastricht, scadenza per CV 15 dicembre, info su eipa.eu. E infine lo European Forest Institute in Germania ha attivato una colla per ricercatori junior nell'ambito del progetto Marie Curie, scadenza per CV 31 dicembre, info su efi.int. siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, diamo spazio alle lettere che inviate a giovanitalenti@radio24.it per lo spazio Internective. Ascoltiamo dunque l'email che ci ha inviato la nostra ascoltatrice Bettina, una missiva che prosegue nel paragone appena tracciato tra Italia e Cina, che fa da sfondo a questa puntata. Purtroppo anche in questo caso un paragone per noi perdente. Bettina ci spiega dove sbagliamo. Buongiorno, vi seguo con costanza e mi ritrovo nella maggior parte delle storie che sento. Ci tengo a raccontare come riesco a sopravvivere per ora in Italia. Sono designer. Il design italiano è apprezzatissimo all'estero, assolutamente sottovalutato in Italia. Ho 10 anni di esperienza. In Italia non veniamo pagati, a meno di essere grossi studi o grandi nomi. Continui a lavorare a scopo promozionale per farti conoscere. Personalmente l'essere donna è stato un altro ostacolo. Per guadagnare soldi in Italia, io, come tanti altri professionisti, mi dedico all'insegnamento. Quello per ora non viene sottovalutato. Anni fa ho iniziato a lavorare con la Cina, sia dall'Italia, sia andando là per cercare contatti. Alle fiere cinesi ho trovato aziende che hanno creduto in me e mi hanno subito affidato lavori importanti, solo mostrando il mio portfolio. I pagamenti sono puntuali, sempre meglio di quelli italiani, sono veloci nel prendere decisioni, tra il fine progetto e il prototipo passano massimo 6 mesi. Nella sostanza, fisicamente sono in Italia, ma il mio cervello è impiegato per aziende estere, che poi, per assurdo, rivendono il frutto del mio lavoro alle italiane e alle tedesche. Ho sentito che sollecitavate l'invio di spunti per evitare che i giovani fuggano dall'Italia. Premesso che avrei 1000 cose da dire, cerco di stringere. Gli stimoli per far rientrare gli italiani all'estero penso che siano controproducenti, una presa in giro per chi rimane. Dovrebbero rendere appetibile l'Italia per tutti, non solo per chi scappa. Esperienza personale, lavoro con l'estero. I soldi che io guadagno con alcuni paesi vengono sovrattassati. Ritengo che andrebbe fatto il contrario. Faccio entrare soldi da altri paesi in Italia, legalmente, con fattura. Ci pago le tasse e arricchisco il mio paese. Penso che l'Italia dovrebbe ringraziarmi per questo, non punirmi. Che io sappia, ci sono aiuti per la vendita di prodotti italiani all'estero. Non c'è nessun aiuto per vendere le professionalità italiane all'estero. Con internet è possibile lavorare dall'Italia per altre nazioni. Visto che l'Italia non è più in grado di fornire lavoro a sufficienza, penso sia una buona strategia aiutare gli italiani a trovare clienti all'estero per continuare a vivere nel nostro paese. Invece è tutto affidato alla propria iniziativa e al proprio masochismo nel continuare a vivere qua con le condizioni proibitive che ci vengono poste. Vivere in Italia è diventato un lusso. Un motivo per restare o tornare. Avviso ai giovani di Piemonte e Val d'Aosta, scade il 3 dicembre il bando per il progetto Talenti per l'impresa, che fornisce agli studenti universitari e ai laureati regionali le competenze manageriali necessarie per avviare un'impresa innovativa o gestire progetti all'interno di aziende già esistenti. Per i migliori 15 la possibilità di usufruire di una settimana presso un incubatore di imprese in Gran Bretagna. Info a fondazionecrt.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese, come sapete, leggiamo le vostre lettere. La discussione di novembre, lo ricordiamo, è auspicabile un rinnovo della classe dirigente italiana attraverso i giovani professionisti attualmente all'estero. Merito, innovazione e trasparenza, solo loro possono importare in Italia queste regole base del cambiamento. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, con una puntata, vi preannunciamo, speciale. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.